Ma se fosse alle 2:30, alle 3 lo farei. Cioè, capace ma addormenta a mezzanotte e mezza. Se inizia all'1 finisce alle 4:30, 4. L'ideale è quando inizia alle 2:30, alle 3 poi. Fate tardi e poi fate schifo a recitare. Ecco, ora comincio a capire perché. E ancora non siamo mai andati a bere la sera prima di andosi da recitare. Lì sì che il giorno dopo si fa schifo. O l'ora prima, insomma, perché la sera prima magari si smaltisce. Ma secondo me con l'ora prima ci sta che ci sappia anche forse... Allora la prossima si proverà a dargli un cicchettino prima di si porterà un fiasco di vino, tanto noi siamo campagnoli, invece lo spritz come fanno a Milano, noi si piglierà un po' di vino. Milanesi, ora via, sentiamo il messaggio ci hanno mandato. Vai. Ma siete gli attori peggiori che io abbia mai sentito. Veramente non ero mai riuscita a trovare nessuno che recitasse così male. Vi dovrei dare un premio. Allora, mi sa che la commedia non fa per voi. Cosa possiamo fare? Proviamo con una tragedia, magari vi viene meglio. Ma, oh Fumino, ma come sta qui questo messaggio in analogico, le bobine? Ma come mai? Ma io ci sono rimasto malissimo, io pensavo... Questi dai nord ci mandano messaggi, è tutto digitale. O loro avranno pensato che noi, siccome siamo gente di campagna, e non ci sabbia nemmeno internet, nemmeno la DSL, ma non lo so. Ma o forse si sarà rotto internet a loro, cioè. Ma io guarda. Gli si è rotto la telecamera, il cellulare, che vuoi sapere? Giù, facciamo questo cabaret. Bah. Le questioni sono due: o noi siamo troppo avanzati tecnologicamente, o loro pensano che noi siamo rimasti all'età della pietra. Ma che ne sai, gli avranno detto: uè, sti bauscia della Toscana, uè, mandagli una bobina, che quelli non hanno il telefonino. Tra l'altro, lontano 2004, io mi ricordo di un fiorentino che venne a una conferenza e si era organizzato. E quando scoprì che noi si era fatto la pubblicità su internet, disse: ah, ma come? Ma avete internet anche voi? Disse: ma abbi pazienza, ma chi... cioè, e quello veniva da Firenze, sono 30 chilometri, capito? Figurati. Figuriamoci chi viene da Milano cosa penserà di noi. Giù, facciamoli ricredere questi milanesi. Allora, è stato chiarissimo quantomeno il messaggio, e se il messaggio non è stato chiaro lo ripeto io: questa è una tragedia, è una opera serissima, perché qui si parla di temi delicatissimi, il matricidio, il parricidio, oh, è una tragedia, e oltretutto è una tragedia greca, ma non di quelle che vanno a tifare il Pau Salonico, di quelle greche sul serio. Pertanto mantenete un tono, datevi una voce tragica e ricordate che quello di cui trattate è tra le cose più terribili del mondo. Alla greca. Perché mi fissi così e piangi? Perché non sapevo ancora nulla delle mie sciagure. Quale delle mie parole te lo ha rivelato? Vedere che ti stagli su uno sfondo di dolore. E scorgi solo una minima parte delle mie sventure. E come potrai vedere qualcosa di ancor più atroce? Convivo con gli assassini. Assassini di chi? Di quale crimine stai parlando? Dell'uccisione di mio padre. E poi mi hanno costretto a fare la loro serva. Chi è che ti costringe? È mia madre, di nome. Ma che madonna, mi sembra uno, sono due. È mia madre, di nome, ma non ha niente a che vedere con una madre. E come ha fatto? Con la forza oppure umiliandoti? Con la forza, umiliandomi con ogni genere di angherie. e non c'è nessuno che prenda le tue difese o che comunque la contrasti? No, me lo hai portato tu in cenere, colui che la contrastava. Oh sventurata, da tempo provo pietà a guardarti. Tu solo fra i mortali hai avuto pietà di me, devi saperlo. Perché solo io sono venuto qui straziato dallo stesso dolore. Sei nostro parente? Da dove vieni? Potrei dirtelo soltanto se costoro ci fossero amiche. Lo sono, puoi fidarti di loro. Posa quest'urna e saprai tutto allora. In nome degli dèi, non farmi questo, straniero. Dai retta a chi ti parla e non ti sbaglierai. Ti supplico, non portarmi via la cosa che ho più cara al mondo. No, non te la lascerò. Oh, me infelice, per causa tua, Oreste, se non potrò neanche darti sepoltura. Non pronunciare parole di malaugurio. Sbagli a piangere. E in che senso sbaglio? Se piango per mio fratello morto? Non devi parlare così. Si riducono a così poco i miei diritti nei confronti del morto? No, ma non è questo che devi fare. Certo che devo, se questo che stringo tra le mani è il corpo di Oreste. Non lo è solo una finzione di parole. E allora dov'è il sepolcro di quell'infelice? Non è, non esiste sepolcro per chi è vivo. Come hai detto, giovane? Solo la verità. Allora è vivo? Sì, se lo sono io. Sei forse tu? Guarda questo sigillo di nostro padre e capirai se ho detto la verità. Oh, luce carissima. Sì, la più cara al mondo. Oh, la tua voce. Sei venuto qui. Non dovrai più chiedere notizie ad altri. Ti stringo fra le braccia? Per sempre. Donne carissime, concittadine, guardate! Ecco Oreste, morto per uno stratagemma, e per uno stratagemma adesso vivo. Non guardate che Oreste e Elettra sembrano due protagonisti di una soap opera brasiliana. Tuttavia, questa volta, secondo me, ci siete riusciti. Avete proprio fatto piangere. Oi, davvero, guarda, io te lo dico, si è fatto male. Ti pareva? No, ma come si fa qui? Qui si piglia una raffia di labbrate alla fine. Senti, non è la corrida, quindi non hanno l'opzione fischio. Dovranno applaudirci per forza. Speriamo non abbiano nemmeno l'opzione pomodori o ova marce, perché sennò ci si fa il bagno dopo, il bagno di sudicio prima e la doccia dopo. Ci fosse un camerino.